l'educazione incidentale con il curatore Francesco Codello. Io faccio una breve introduzione di Francesco, che oltre ad essere stato un insegnante e un dirigente scolastico, si è occupato di pedagogia, della tematica della pedagogia, è stato il fondatore della rete dell'educazione libertaria, e fa parte e attivo nell'European Democratic Education Community. Ha scritto tanti libri anche sull'argomento, fra cui Vaso, Creta o Fiore, La campanella non suona più, e anche altri titoli. Per la casa editrice che ha editato questo libro ha scritto anche Né obbedire né comandare e La condizione umana del pensiero libertario. Allora, io passerei subito la parola a Francesco, perché per quello che riguarda la tematica del libro inizierei subito con lui. Buonasera, grazie di questo invito. Lo scopo di questo nostro incontro è presentare un libro, e quindi parleremo prevalentemente del libro, ma poi ovviamente, come spero ci sarà modo, se ci sono così, se c'è la volontà, il desiderio di allargare un po' il discorso, per me va benissimo, insomma, ecco. E grazie ancora sia agli compagni e le compagne che ci ospitano qui, e soprattutto grazie ai compagni e compagne dell'Ateneo Libertario di Firenze. Allora, forse è il caso di dire due parole prima su chi era Colin Ward, giusto per inquadrarlo, forse per chi non lo abbia mai sentito nominare o non l'abbia conosciuto. Ecco, io posso dire tante cose, ma ne dirò due o tre solo, ovviamente. Perché sono stato suo amico e per me è stato un maestro nel senso proprio classico della parola. Un maestro perché dall'incontro con le sue idee, da un lato, ma soprattutto dall'incontro fisico, diretto, personale con questa persona, io ho ricevuto molto. E questo libro voleva essere in qualche maniera anche un omaggio a Colin Ward. Il prossimo anno, l'11 febbraio, saranno 10 anni che Colin è morto. Lo ricorderemo con un seminario a Milano, sicuramente. Ma devo dire che io, nella mia ricerca, nelle cose che scrivo, nelle cose che faccio, eccetera, il suo pensiero, il suo stile, il suo approccio ai problemi, alle problematiche, e il suo sguardo anarchico, che è uno sguardo particolare, mi hanno sempre influenzato e continuano ad influenzarmi in senso positivo. In questo libro ho raccolto alcuni, ovviamente, dei suoi scritti sull'educazione. Colin Ward è stato un insegnante. Pensate che, per dirvi un tratto caratteriale un po' specifico di questa persona, questo compagno, è stato chiamato a tenere diverse conferenze tra i tanti posti al mondo, anche alla London School of Economics di Londra, che è un po' uno dei templi della cultura ufficiale, diciamo, no? Quella più importante, quella con la cima di sua, senza essere neanche laureato. Era stato un insegnante, è stato un architetto, è stato un sociologo, è stato un urbanista, si è occupato di paesaggi, di orti urbani, di giardinaggio, di occupazioni, di tutto il movimento squat, eccetera, eccetera. Insomma, è stata una infinità di cose. Rappresenta forse, così mi piace ricordarlo, quella figura di intellettuale che non è svincolata dalla realtà, anzi, che sta dentro fino in fondo la realtà e che non ha una specializzazione ossessiva su un ambito culturale. Uno dei problemi più grossi, credo io, che abbiamo oggi noi e che hanno gli intellettuali o coloro che operano in lavori che sono a carattere prevalentemente intellettualistico, è l'eccesso di specializzazione. Questo eccesso di specializzazione comporta uno sguardo di fronte ad un problema specifico molto, molto ristretto, molto, molto limitato, che non tiene conto di una complessità di elementi. Pensate, faccio solo un esempio, poi non mi perdo, anche la medicina, come è iperspecializzata, ma come non tenga mai conto dell'insieme del cosiddetto paziente. E questo che cosa comporta, che cosa vuol dire? Purtroppo lo vediamo, lo sappiamo, lo sperimentiamo noi nella nostra pelle quotidiana. Ecco. L'intellettuale come Colin Ward è stato quindi un esempio da questo punto di vista, dal mio punto di vista ovviamente, un esempio da seguire, e ricalca quelle figure del Medioevo, prima, del Rinascimento, della Grecia classica, se vogliamo, faccio dei salti così arbitrari nella storia, velocemente, che avevano questa grande capacità, queste figure di queste persone che avevano questa grande capacità di offrirci degli sguardi complessivi, pur partendo da un singolo specifico elemento. Quindi non una teoria astratta, neanche, ma partendo sempre da un determinato problema che veniva affrontato, quindi concreto, la capacità di vederne, di osservarlo, di denudarlo, di svelarlo e di trovarne anche gli aspetti evolutivi attraverso diversi appunti, punti di vista. Questa per me è la prima caratteristica di questa figura che voglio ricordare qui, quindi, e mi limito a questa, molte ce ne sono altre. L'altra è quella di un personaggio che è stato redattore della, forse, dal mio punto di vista, non dico forse la, perché magari non le conosco tutte, ma sicuramente di una delle riviste più importanti che gli anarchici abbiano mai fatto nel corso della loro storia, Anarchy, una rivista inglese, un mensile che veniva fatto da Colin Ward negli anni 60, i primissimi anni 60. Quindi siamo anche in un'epoca, capite, che parlare di anarchia era una cosa un po' strana, un po' perché, come forse non tutti sanno, non solo in Italia ma anche negli altri paesi, dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra fino al 68-69, c'è stato un buco nero nella storia dell'anarchismo. Pochissimi erano gli anarchici sopravvissuti, alcuni sopravvissuti alle guerre, ai totalitarismi, eccetera, eccetera, e giovani che ancora non si avvicinavano. Quindi noi abbiamo avuto, non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo, un grande buco nero. E quindi fare una rivista in quegli anni, con questo taglio, è stata un'impresa culturale straordinaria. Ancora oggi le pagine di questa rivista sono fonte continua di stimoli di osservazione della società con uno sguardo, e vediamo qual è questo sguardo. E poi passiamo al libro. Qual è lo sguardo di Colin Ward? Colin Ward fa una cosa sul, diciamo, prendendo da tre autori. Nonostante la molteplicità di libri, di articoli, di conferenze, di trasmissioni radio che Colin Ward ha fatto in tutto il mondo, i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, anche in turco, cioè in lingue che magari non te l'aspetteresti ancora che filtrassero le nostre idee, diciamo, no? Lui si è sempre dichiarato un semplice propagandista, un umile divulgatore delle idee. In realtà non è stato assolutamente così. anche se lui a questa cosa ci teneva in modo particolare, non è stato esattamente quello. E diciamo, qual era la sua concezione dell'anarchismo? Voi sapete che la concezione classica dell'anarchismo è una concezione che è una concezione rivoluzionaria, cioè che pensa, progetta, agisce per una trasformazione radicale della società, ma che storicamente ha sempre legato questa trasformazione con la speranza e anche con i tentativi fatti, anche talvolta tutti falliti purtroppo. L'unico che è durato un certo numero di anni è stata la Spagna dal 36 al 39, se vogliamo qualche anno nella rivoluzione russa, soprattutto in Ucraina con Nestor Makhno, ma in Messico durante la rivoluzione messicana, insomma ci sono stati tanti tentativi anche in Italia, ma alla fine sono falliti tutti. Colin Ward che cosa dice? Prende lo spunto da uno che lui considera essere il suo principale, forse, interlocutore nel pantheon ideale dei suoi maestri, chiamiamoli così, Kropotkin. E Kropotkin negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, si è dedicato molto a valorizzare sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista, diciamo, organizzativo, sociale, esperienze significative di pratiche libertarie. Lì e ora, lì e allora, qui e adesso, diremo oggi con un termine più preciso. Colin Ward che cosa fa? Dice una cosa molto semplice, ma è sconvolgente. Che l'anarchia non è qualche cosa che deve venire, ma è qualche cosa che esiste già dentro le maglie soffocanti di una società autoritaria, di società autoritarie come quelle che noi viviamo, ma che sta dentro tutti quei tentativi che uomini e donne fanno concretamente ogni qualvolta si trovano a dover affrontare un problema e scelgono una soluzione anti-autoritaria per cercare di risolvere quel problema. Capite che questo è un capovolgimento di prospettiva. Non è che Colin Ward non fosse più rivoluzionario per questo, ma con questo ci ha permesso di pensare l'anarchismo come una cosa viva, come l'unica risposta possibile adesso, nonostante tutto e nonostante tutti, vorremmo dire, per risolvere i problemi che gli uomini, le donne, bambini, anziani, non importa, si trovano a dover affrontare. Ecco che si è occupato di acqua, quando nessuno si occupava dell'acqua, rivalutando tutta la tradizione di gestione collettiva, popolare, dell'irrigazione e della distribuzione dell'acqua. Ecco che si è occupato di trasporti per denunciare il declino che avrebbe avuto questa società con un uso sproporzionato della macchina, che cosa avrebbe comportato il privilegiare il trasporto in macchina rispetto a un trasporto pubblico. Insomma, a tutte queste cose qui. Ecco che si è occupato di analizzare le forme associative più strane. Pensate che ha scritto un libro sui campeggi, cercando di scoprire qual era l'anima, qual era diciamo l'essenza, lo spirito del campeggiare rispetto... Ce n'è una parte anche in questo libro. Sì, nell'architettura del senso, eccetera. Si è occupato di urbanistica, di occupazione di case, insomma di un'infinità di questioni. Bene, detto questo, partiamo da tre cose per capire perché è importante l'educazione per Colin Ward, perché adesso qui... E qui lui, diciamo, si rifà a altri due autori che lui reputa sempre i suoi riferimenti culturali più importanti. Uno è Martin Buber. Martin Buber, sapete, è stato un grande rivoluzionario russo che è passato sotto l'etichetta di populista, quando i populisti, perché anche adesso, sapete, quando usiamo queste parole dovremmo stare attenti, perché il populismo non è mica solo questa degenerazione. Il populismo è stata una cosa seria, è stata una cosa seria nella storia, importante, un movimento molto importante che dobbiamo rivendicare. Questa, vabbè. Martin Buber ha per Colin Warren era importante per questa cosa, perché diceva: Martin Buber ci ha fatto capire che un obiettivo troppo distante da noi non è più un obiettivo, ma è un inganno. Quindi rinviare continuamente il nostro agire, non considerare quello che possiamo fare immediatamente, è fondamentale. Buber. E per altre cose, adesso teniamo questa, ma per capire il passaggio sull'educazione. Secondo, Paul Goodman. Paul Goodman diceva, per Colin Ward è stato importante, perché diceva tantissime cose sul piano architettura, insomma, adesso per quanto riguarda l'educazione diceva due cose importanti. Qual è la postura dell'anarchico in una società autoritaria? È quella di imparare a tracciare il limite. Che cosa vuol dire tracciare il limite? Vuol dire che ognuno di noi, e poi noi assieme agli altri, siamo invitati a, di volta in volta, definire il limite del compromesso oltre il quale non vogliamo andare. E quindi è una postura che assumiamo, è un atteggiamento concreto, non è una cosa velleitaria, non è una predica, è un atteggiamento concreto. Naturalmente ci si accorge, credo che tutti ci accorgiamo, che ogni volta che tracciamo il limite, che noi lo facciamo tutti noi facciamo questa cosa qui, noi che siamo qui sicuramente, quando facciamo questo limite, ci accorgiamo, non ci basta mai, lo restringiamo, lo alziamo sempre di più il limite, lo rivendichiamo sempre più forte, perché diventiamo consapevoli di tutto questo. Secondo passaggio sempre di Paul Goodman che Colin Ward riprende, anche sempre rispetto alla postura da assumere nella società, Paul Goodman diceva un'altra cosa importante, che è questa: tu sogni una società diversa, hai una vaga idea di come vorresti vivere. Ecco, diceva Paul Goodman, non aspettare niente, comincia a vivere adesso come vorresti vivere in una società diversa. Terzo, e finisco, riferimento, Gustav Landauer, anche questo, anarchico, importantissimo, pochissimo conosciuto in Italia, come del resto Paul Goodman, ahimè, il quale ha detto un'altra cosa importante per Colin Ward, che lo Stato non è qualche cosa che si abbatte con un evento, ma lo Stato è principalmente una serie di rapporti tra gli esseri umani, e quindi si combatte costruendo altri rapporti tra gli esseri umani. Capite che con queste premesse va da sé che l'educazione svolge un ruolo importante in questo, non è l'unica, ma diventa strategica, vorrei dire, per poter stare dentro questo solco, dentro questo tracciato che Colin Ward ci ha proposto. Ed ecco perché la necessità che ho sentito di raccogliere in questo volume alcuni, dicevo, scritti di Colin Ward sul tema dell'educazione. Sono scritti che stanno dentro un arco di 20 anni, e in ogni uno di questi scritti alla fine ho fatto un appendice, diciamo così, per rilanciare in termini di stretta attualità, perché in 20-30 anni tante cose sono anche cambiate, altre sono rimaste sempre le stesse, rilanciare come questo sguardo che Colin Ward ci propone in questi scritti può essere, dal mio punto di vista, usato nella connessione di Paul Goodman, il quale usa questo termine scrivendo un saggio di commento, di analisi dell'esperienza di Summerhill, fatta da Alexander Neil, scuola libertaria fondata nel 1921 nel Suffolk, in Inghilterra, nord-est di Londra, e ancora funzionante. Ma che cosa vuol dire? Ecco, adesso cerchiamo di entrare nel concetto di educazione più che entrare nei singoli capitoli. Che cos'è l'educazione incidentale? Allora, è quella che gli antichi greci, se vogliamo fare un paragone storico, chiamavano metis, quella che viene ripresa nel libro di Scott, Elogio, lo sguardo dello Stato, che domani sarà presentato qui dal mio caro amico Stefano Boni e da te. Ecco, quel concetto di metis che cos'era? Sarà ripreso anche domani, ma lo diciamo solo brevemente. Non è altro che quel sapere che i greci ci hanno indicato, quel sapere che è fatto, che nasce da un contesto specifico, locale anche, e esperienziale, pratico, risolutivo, ed è che rappresenta un insieme di saperi, di conoscenze, di abilità, di strategie, che l'apprendimento, tra virgolette, ufficiale, non solo ha trascurato, ma ha completamente espulso da ogni esperienza di tipo educativo formale. Di questo parlerete domani, sentirete domani. Quindi, tanto questo apprendimento incidentale è naturale e inevitabile, quanto invece l'istruzione formale, quella scolastica con la S maiuscola, è un intervento deliberato, pertanto ha bisogno di una sua giustificazione. E qual è la giustificazione che la struttura scolastica tradizionale ci ha tramandato? Ho bisogno di bere un goccio d'acqua. Mi fa piacere, che intanto vado avanti. Grazie. Qual è? È questa. Alcune cose, no? Noi viviamo in una società che è... Ma sentite, sì? Sì. Viviamo in una società che è decisamente scolarizzata. Nel senso che ormai a scuola, nelle società occidentali, abbiamo una presenza, una scolarizzazione che è pressoché totale. Però questa scolarizzazione di massa, così impotente, così forte, ha condizionato e condiziona atteggiamenti, credenze, valori che sono propri di un sistema educativo di massa, come in realtà noi lo conosciamo nella nostra esperienza concreta. Ma è questo insieme di questi fattori non è tanto il risultato di un'educazione, e vedremo che Colin Ward recupera il significato originario della parola educazione, ma di una istituzionalizzazione dell'educazione stessa. Che cosa ha prodotto tutto questo? Vado veloce perché solo su questo argomento dovremmo parlare una serata, ma insomma, io cerco di essere più rapido che posso. Che cosa ha prodotto tutto questo? Attenzione, ha prodotto questo. Primo, la scuola, e solo la scuola, è il luogo in cui avviene l'apprendimento. Ha prodotto nella mente delle persone, nell'immaginario di noi tutti. Secondo, l'unica conoscenza che conta è quella che si acquista a scuola. E non ho detto a caso acquista a scuola. Quindi, terzo elemento, l'apprendimento è il risultato di un insegnamento. Quarto, l'insegnamento ha bisogno di professionisti votati a questo. Quinto, la conoscenza è una cosa da acquisire in una istituzione specializzata. La conoscenza, altro elemento, è quantificabile. Più si frequenta, più se ne ha. Sesto, più apprendimento significa che c'è più insegnamento. Sette, un insuccesso nell'apprendimento non è un insuccesso dell'insegnamento. Quindi è necessario intensificare l'insegnamento. Ottavo, ogni fallimento dovuto al sistema non è un fallimento del sistema, ma un problema da risolvere con un potenziamento del sistema stesso, con più burocrazia, più organismi, più esperti, più soldi. Nono, la conoscenza è un prodotto e non un processo. Decimo, la scuola è un sistema manipolatorio. Dominano gli interessi istituzionali, le persone sono trattate come oggetti, la libertà viene limitata dalla partecipazione obbligatoria, che è un non senso, e da interferenze inconsce. Non può essere usata la scuola mai a seconda delle necessità e dei desideri di chi la vive. Ultimo, ma ce ne sarebbero anche molti altri, ma ci limitiamoci a questi, l'educazione e l'istruzione non è dunque qualcosa che facciamo per noi stessi, a cui partecipiamo attivamente, che condividiamo, ma qualcosa che si ottiene, e ciò che si ottiene è determinato da altri. Altri decidono la sua forma, per esempio la divisione rigida delle discipline, storia, geografia, eccetera, eccetera, e la sua durata, per quanti anni, che sanciscono se l'abbiamo acquisita, nel qual caso ci rilasciano una sorta di certificato di proprietà che attesta che l'abbiamo acquisita sufficientemente in un determinato contesto. Tutto questo processo enorme di socializzazione dell'educazione e di educazione di massa, di istruzione di massa, gestito ovviamente dal sistema autoritario, ha prodotto questo tipo di convinzioni, ma ne ha prodotto uno che è ancora più drammaticamente difficile da scalfire, che è questo. La convinzione che è diventato un assioma, cioè una cosa indimostrabile, perché è talmente lapalassiano e evidente che non occorre dimostrarlo. E qual è? Quello che i bambini e le bambine apprendono perché si insegna loro. Ecco, questo libro, attraverso un'infinità di esempi concreti, racconti, aneddoti, analisi, sguardi, eccetera, ci fa capire invece che esiste in realtà tutto un altro apprendimento incidentale, appunto informale, che è l'apprendimento vero, che è l'apprendimento che resta, che viene rielaborato, perché è il frutto continuo dell'interazione tra ogni essere con l'ambiente, in senso lato inteso, e con gli altri. Pensate per un attimo a voi stessi, e cioè quali sono le conoscenze, ad esempio, che vi sono rimaste o che vi rimangono dentro, che interiorizzate profondamente, non che ripetete come pappagalli per ottenere un voto e 10 minuti dopo non vi ricordate più nulla di quello che avete ripetuto come pappagalli, che abbiamo, io dico voi, ma nel voi ci sono anch'io. Qual è? Quello che vi siete fatti voi, ogni qualvolta vi siete trovati di fronte ad un problema, sia esso filosofico, esistenziale, concreto, economico, politico, di qualsiasi tipo, vi siete interrogati, vi siete confrontati, avete studiato avete letto, avete elaborato e avete sperimentato. Colin Ward ci dice proprio che questo è il vero apprendimento, quello che è stato espulso, cioè tutto questo apprendimento appunto incidentale, che nasce spontaneamente nei vari contesti nei quali ogni essere umano si mette in relazione con gli altri e con l'ambiente nel quale, nel contesto sociale nel quale vive. Quindi gli apprendimenti significa che non dipendono necessariamente dagli interventi corretti e adeguati degli adulti. C'è in questo mondo una sopravvalutazione mostruosa del ruolo dell'adulto nel processo di nella relazione educativa e di istruzione. Noi siamo presuntuosi come adulti e pensiamo sempre che i bambini e le bambine siano una sorta di tabula rasa. Una delle cose che pensiamo quando non pensiamo che sono malvagi, c'è una letteratura distopica che racconta questo tipo di visione del mondo dell'infanzia, no? È molto interessante da leggere. Ecco, noi pensiamo sempre di essere così importanti sempre nella relazione educativa con i bambini. E difatti lo siamo, ma lo siamo quasi sempre in senso negativo. Perché da ogni contesto di tipo educativo noi abbiamo espulso tutta questa infinità di saperi, di abilità, di competenze, di interessi, di visioni che sono proprie invece di ognuno, di ogni essere umano nel momento in cui, ripeto, all'infinito si trova ad interagire e ad affrontare un singolo problema specifico. Nessuno, e dico nessuno, può non imparare. In nessun contesto egli si trovi. Anche nei contesti più drammatici, come una guerra, un manicomio, un carcere e avanti e avanti così. Tutti noi impariamo, continuamente impariamo. E allora vi butto lì una provocazione, che anche questo magari sarebbe una cosa interessante da discutere. Se apprendere è un fatto incontestabilmente naturale, inevitabile, connaturato alla specie animale, ha senso rendere obbligatorio l'apprendimento? Tenetelo lì, come un problemino su cui magari si può discutere poi. Torniamo ancora un po' invece a questo discorso, spieghiamolo un po' meglio e poi qualche parola sul libro e poi lasciamo spazio alle domande e alle interlocuzioni, no? Bisogna quindi prestare, dicevo, più attenzione alla natura e all'entità, intesa come ampiezza, dei contributi che ci vengono dai bambini e dalle bambine stessi al loro apprendimento. Osservare quanto osservano i bambini, quanto conversano, chiacchierano tra di loro, quanto esplorano. Purtroppo, quante domande fanno? Gli unici filosofi rimasti sono, perché i filosofi per vocazione dovrebbero fare domande, non fare dichiarazioni, dovrebbero interrogare, interrogare, interrogare. Chi è che interroga oggi? Chi è? Finché questo mondo così ferocemente adultizzato e autoritario non sta spegnendo progressivamente questi spazi di autonomia dei bambini e delle bambine. E Colin Ward ce lo racconta, ci racconta la città. La città è più fruibile da un bambino o da una bambina. E la città è una fonte inesorabile di conoscenza. Sarebbe quella, quello che ci dice Colin Ward, la scuola, non quel quadratino chiuso dentro quattro mura, ossessionati dalla sicurezza, dal rispetto delle gerarchie, dal rispetto dei programmi scolastici, dal rispetto di disposizioni e di interessi che stanno completamente fuori. Tutto questo sta spegnendo progressivamente proprio questo osservare, questo conversare, questo esplorare. Ci sono delle pagine bellissime nel libro quando Colin Ward racconta, ricordando i ragazzini, per esempio, di quanto non erano tanto, fa una critica feroce a tutta l'ideologia dei parchi giochi, 20-30 anni fa. Cioè luoghi deputati, recintati, dove dei bambini possono stare a esprimere la loro specificità. Una sorta di ghetti, di gabbie chiuse, dove lì stai. Naturalmente video sorvegliato oggi, ipercontrollato, eccetera, eccetera, eccetera. Bambini e bambine non stanno più da soli. Tra di loro sono sempre, sempre, sempre controllati da una presenza di un adulto. E quindi tutte questo spontaneo apprendere è completamente espulso, non solo dalle scuole, ma dalle vite delle famiglie. Le famiglie organizzate e che organizzano il tempo del bambino e della bambina, il corso di questo, lo spostamento di qua, il correre per fare quest'altra cosa, tutte queste prestazioni continue che stiamo chiedendo, e ogni qualvolta vediamo che questi bambini non ce la fanno più, allora subentra un processo di medicalizzazione delle condizioni dell'infanzia, l'iperattività, quindi ti do lo psicofarmaco perché devi star seduto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo mondo, dice Colin Ward, non è più il mondo che educa, perché educare, usando proprio la metafora che io poi ho ripreso in un libro mio, vaso, creta o fiore, ci dice Colin Ward, il vaso si riempie, pensate all'educazione come vaso, io riempio, perché davanti ho un essere che è niente, che è zero. E quindi io ho il diritto, anzi il dovere, di riempirlo. Oppure creta, dice sempre Colin Ward, la creta, sì, non è un rapporto così violento, immediato, forte, butto dentro, no, verso dentro, è più suadente, ma è sempre un modellamento, è sempre un portare dove io desidero che tu arrivi, perché quella mia idea di essere umano, economica, politica, religiosa, eccetera, eccetera, è quello che mi dà il diritto di educarti. È sempre, così lo definisco io, un educare a dover essere, ma quel dover essere sono sempre io adulto che lo definisco. Qual è? E invece l'educazione libertaria, che è educazione incidentale, è educare ad essere, e cioè è il fiore. Il fiore è il tulipano, che è tulipano e non è una rosa, è il garofano che non è un'ortensia, cioè è l'esplosione della diversità, di ciò che ognuno nel suo percorso storico, relazionale, nella sua condizione umana, evolutiva continuamente, è in quel momento, ma dove io, adulto, non devo entrare, non ho il diritto di entrare, ho il diritto di stare assieme, di accompagnare, di confrontarmi, di essere interrogato, di suggerire anche risposte, ma nel rispetto profondo di questo processo individuale, che non è mai individuale perché è sempre sociale, perché è sempre relazione con gli altri, non esiste educazione al di fuori della relazione con gli altri. Quindi tutte queste cose qui ce le racconta Colin Ward. Vogliamo un altro bellissimo capitolo, e questo l'ho potuto sperimentare anche io nella mia vita professionale. con il processo che è avvenuto in questi ultimi 20 anni in Italia, ma che in Inghilterra era avvenuto prima, della chiusura di tante piccole scuole perché ubicate, no? Sempre perché il metro di valutazione è un metro di tipo economico-finanziario, naturalmente, no? I risparmi, facessero da qualche altra parte dei risparmi, no? Sì, sempre quantitativo, mai qualitativo. Va bene, che cosa ha prodotto? E lui racconta, e questo poi racconterò anch'io un episodio che è capitato anche a me, racconta quello che avviene negli autobus, negli scuolabus. E dice, quella è una scuola di vita, perché è un rito di iniziazione, dove ragazzi, ragazze, bambini e bambine stanno dentro. Quante cose potremmo imparare? Come potremmo conoscere meglio questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, se lì potessimo osservare nel tragitto tra casa e scuola? Come potremmo conoscere molto di cosa bolle dentro a ragazzi e ragazze se frequentassimo con più assiduità, cosa che io facevo abitualmente, i bagni scolastici? Vi sto dicendo che quello che Colin Wall vuole sottolineare è che esistono una infinità di modi e di spazi attraverso i quali i ragazzi, le ragazze di tutte le età usano, interagiscono con l'ambiente, apprendono direttamente quanto si impara da una zuffata tra ragazzi e tra ragazze. Quanto abbiamo imparato, tutti quelli almeno che hanno i capelli un po' più bianchi, così, che hanno vissuto un'altra dimensione non così soffocante della vita, anche di questo tipo di vita, quanto abbiamo imparato dalla strada? Quanto abbiamo imparato dal girare per i negozi, per fare delle cose, no? E quanto invece non apprendono più niente di tutto questo? Di tutto questo sapere artigianale, che è vero sapere, perché è strettamente collegato al fare, al progettare e al rifare, cioè allo sperimentare continuamente. Ecco, questa è l'educazione incidentale, questa è questa educazione informale ed è l'emergenza principale di questa società. Io credo che dovremmo diffidare da chi oggi dice che dobbiamo investire somme ingenti di denaro dentro le scuole per comprare nuove lavagne LIM, nuovi computer, nuove strumentazioni, eccetera, eccetera. Dovremmo invece prendere e utilizzare tutti gli spazi, la biblioteca, il negozio, la bottega, la piccola impresa artigianale, i campi, tutto quello che c'è, che possiamo utilizzare e farli diventare luoghi di apprendimento, cioè frantumare la scuola e tenere uno spazio che diventa una sorta, così lo definisco io nel commento a uno di questi, magazzino intelligente, ma dove torno per rielaborare, ma dove la maggior parte del tempo l'ho spesa fuori da quel magazzino. Poi certo che c'è il momento dell'elaborazione, della riflessione, ma diventa un fatto inevitabile, desiderato, voluto, non imposto, non calato dall'alto, non gerarchizzato. Ecco, questo è un po' quello che, diciamo, contiene questo libro di Colin Wall. Io l'ho allargato adesso a altri discorsi, insomma, no? Questo apprendimento quindi informale che si può descrivere attraverso anche tre categorie, direi, principali. Uno, un apprendimento è informale, quell'apprendimento che è orientato verso uno scopo per il quale il soggetto si impegna. Se noi abbiamo uno scopo, c'è un desiderio esplicito che noi abbiamo, ci impegniamo per quello scopo ci orientiamo a conseguire quella conoscenza che ci interessa. Poi è un apprendimento che avviene casualmente anche durante un'attività principale, cioè è un apprendimento che inferisce con una cosa che stiamo facendo e di cui magari in quel momento non ci rendiamo neanche conto. Stiamo facendo una determinata cosa, mentre la facciamo, inevitabilmente arrivano altri stimoli, altre suggestioni, altre conoscenze, altre punciglioni, diciamo, di cui in quel momento magari non ci rendiamo conto, ma che ci sono serviti per riprendere per perseguire quell'obiettivo che stiamo perseguendo. Recuperare questi è importantissimo per avere un apprendimento più profondo. E poi è anche un apprendimento di tipo implicito, perché si produce talvolta anche in modo incosciente. Quante volte capita che facciamo una cosa anche automaticamente, o che di fronte a una cosa interveniamo immediatamente, la risolviamo e poi se qualcuno ci chiede ma come hai fatto? Ma non lo so, l'ho fatto in prima battuta. Capite la portata di tutto questo per far sì che questo bisogno naturale di apprendere non sia spento dentro formule come quelle che ho elencato prima, strutturate gerarchicamente, rigidamente, che spengono l'autonomia, spengono il pensiero critico, la capacità di progettare. E tutto questo serve ad un mondo, naturalmente, che non ha bisogno di pensiero critico. Perché noi quando vediamo anche in famiglia, a scuola, un bambino che non sta sul compito, sta divagando, sta pensando agli affari suoi, gli diciamo la classica frase: ehi, non perdere tempo, non perdere tempo, stai sul compito. Ma sta perdendo tempo o si sta difendendo perché sta fuggendo da un'ossessione o sta pensando a qualcosa di più attraente, di più importante in quel momento. La scuola, una scuola libertaria, deve recuperare questa dimensione dell'apprendimento. Deve far sì, cioè, che la sua organizzazione, la sua struttura, il suo tempo, il suo modo di operare, le sue ritualità siano centrate non sui tempi, le esigenze dell'adulto e quindi dell'insegnamento, ma quelle dell'apprendimento, perché gli apprendimenti sono diversi. Ognuno apprende in modo diverso e noi, per far sì che l'apprendimento non sia uno spot che consumiamo velocemente, non sia una di quelle informazioni che passano attraverso i like, eccetera, eccetera, e di questo mondo, di questa devastante, da questo punto di vista, impetuosa dominazione tecnologica usata in questo modo, noi dobbiamo recuperare un apprendimento profondo, un apprendimento dentro di noi, meditato. Ma perché sia questo, deve rispondere a delle domande che abbiamo. Ma se noi strutturalmente, organizzativamente, vocazionalmente spegniamo la domanda, noi abbiamo spento ogni tipo di apprendimento. Dicevo e concludo che questo libro, straordinario dal mio punto di vista, questi scritti di Colin Ward, ci introducono a questo mondo, ci fanno vedere opportunità infinite di recuperare tempi e ci fanno capire soprattutto una cosa, che attraverso questo sguardo, anche in questo caso, che è specifico relativo all'educazione, noi intravediamo, ed è anche esplicitato, uno sguardo critico nei confronti dell'intera società. Perché criticando una scuola fatta in un certo modo, una città organizzata in un certo modo, un tempo della vita strutturato in un certo modo, noi stiamo facendo una critica radicale, irrecuperabile da parte del sistema. Ma stiamo indicando anche, concretamente, qui, adesso, delle possibili possibili piste, dei possibili esempi di riappropriarci della nostra vita in senso di autonomia e di libertà. Fermerei qui, va bene? Basta. Facciamo se c'è altro. Ci sono due passaggi nel libro, nell'introduzione, che fanno riferimento a William Godwin e a Paul Goodman, che il primo ha già alla fine del Settecento aveva un'idea di cosa fosse la scuola e di cosa comportasse l'educazione, e Paul Goodman negli anni 60 parlava già di una scuola povera, parlava già di restituire praticamente soldi che venivano spesi per l'istruzione agli studenti stessi, che l'avrebbero potuti adoperare in un'altra maniera, in maniera molto più libera e funzionale alla costruzione di una personalità sentita loro, la loro vocazione. Ma pensando anche a un pensatore come, pensando come un pensatore è un bisticcio, come Ivan Illich, ci sono state delle voci già anche nel passato che hanno fatto una riflessione di questo tipo. Perché non si è mai riusciti poi a realizzare, cioè anche nel mondo accademico ci sono delle voci isolate che parlano dell'importanza di questo tipo di riflessioni, ma come mai ancora siamo così distanti da acquisire e da cercare di elaborare questo stile di pensiero e questa visione su quello che riguarda l'educazione in generale? Domanda da rischia tutto questa. No, in realtà risposte ovviamente esaustive non ne ho, ma qualche cosa mi è venuto in mente rispetto a questa questione. Io credo per tre ragioni. Una sono le cause esterne, e lì inutile che sappiamo a cosa ci riferiamo. Una, la più profonda e più importante, è una causa interna, vorrei dire, che è questa secondo me. Noi nel corso della storia, uomini e donne, nella storia recente, intendo dire, cioè dal 600 in poi parlo, siamo stati bravi per certi aspetti ad analizzare quali forme di disuguaglianza si presentavano di fronte a noi, e così prima dal signore allo schiavo, basta schiavitù, poi il padrone e l'operaio, lavoro salariato, eccetera, eccetera. Adesso faccio salti così. Adesso siamo attenti ad alcune tematiche di genere, eccetera, eccetera. Giustamente, uomo, donna, non solo, discriminazione sessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo diventati bravi. Ce n'è una che facciamo fatica a toglierci da dentro, dal di dentro di noi, che è quella proprio della dominazione adulta nei confronti dei bambini. È la più difficile, credo. È la sfida più difficile, perché non è facile assumere in una relazione educativa una postura corretta, come la penso io ovviamente corretta. Non è facile, anzi è difficile. Siamo inevitabilmente attraversati dalle contraddizioni. Però abbiamo un'ossessione che ci viene da migliaia di anni di storia, ma che non era delle società di cacciatori e raccoglitori, per esempio. Non era in alcune tribù, senza scomodare studi adesso di antropologia, non era in altri contesti. Quindi vuol dire che non era connaturata, come si vuol passare, no? Far passare. Allora, questo rapporto adulto-bambino è un rapporto difficile da scalfire, e questo è uno, forse un motivo interno a noi sul quale dobbiamo lavorare, pur sapendo che ci sono delle contraddizioni e che andremo incontro a un'infinità di colpi di coda, di... però è un tipo di disuguaglianza molto particolare, molto difficile da individuare, dentro la quale è difficile starci con una postura corretta, per capirci. Non sto dicendo, anzi penso che i peggiori educatori siano i genitori che fanno gli amici dei loro figli, tanto per capirci. Non sto parlando di quella finta giovanilismo, ecco, no, non è che si può negare l'evidenza, ma ci si può imporre il rispetto, ci si può imporre di non umiliare, ed è difficile. Ed è difficile di non intervenire, di non intervenire. Noi abbiamo un'ossessione di intervento ogni volta che ci siamo in una relazione con bambini e bambine. Dentro la scuola non ne parliamo, perché altrimenti arriva la lettera dell'avvocato, perché se quello lì si sta azzuffando, come diceva Tolstoi, fondatore della prima scuola libertaria che si conosca nella storia, appunto, racconta spesso degli episodi in cui lui si è trovato di intervenire quando ragazzi si stavano azzuffando, rendendosi conto ogni volta che interveniva commetteva un'ingiustizia, mentre se lasciava correre aspettava un attimo, finita quella zuffa, ovviamente fatto salvo, insomma, siamo fra persone mature e intelligenti, fatto salvo il pericolo oggettivo che uno si sta per uccidere o sta facendo del male sul serio ad un altro, ovviamente, ma se stiamo fermi la cosa si è risolta, si risolve da sola, senza strascichi, senza che poi uno si senta o punito o non capito, di aver subito un'ingiustizia. Questi sono, secondo me, alcuni elementi che provano a rispondere a questa domanda. Poi, per fortuna, nel mondo anche oggi ci sono migliaia di esperienze che cercano di stare dentro discorsi come questo o più in generale dell'educazione libertaria. Ce ne sono una infinità. Non tutte funzionano bene. Alcune nascono, poi finiscono. Ci vuole un grande senso di responsabilità, un grande impegno. Non è una cosa facile, ma non lo è per noi che siamo incrostati di cultura di un certo tipo, di un immaginario, siamo condizionati da un immaginario sociale forte da questo punto di vista. È un lavoro che dobbiamo fare su di noi, tra di noi. Ecco, però dobbiamo provare, perché nessuno in realtà di noi è in grado di dire come potrebbe essere lui o lei stessa in un mondo diverso da questo. Non siamo in grado di saperlo. Come saremmo noi? Ma noi col nostro nome e cognome, no? Noi il genere umano. Io con la mia storia, come sarei se il mondo fosse diverso? Quindi abbiamo bisogno di provare, di sperimentare, non di fare dello sperimentalismo fine a se stessi, che è un'altra mostruosità. Capite? Noi stiamo sempre in un equilibrio precario se vogliamo cambiare il mondo adesso, provare a cambiare una piccola cosa del mondo. Certo, abbiamo due possibilità: o ci stare dentro questo mondo così com'è e diventare gli squaloni dove la competizione, cioè bla bla bla bla bla bla, oppure dire: beh, questo qui è un mondo di merda, non c'è niente da fare, aspetterò che arrivi il momento perché cambi tutto. Ecco, io credo che anche qui ci sia una terza via, che sia quella che ci ha indicato Colin Wall: avere una grande visione, averla chiara, di un altro mondo a grandi linee, perché, ripeto, non sappiamo neanche noi come saremo, e cominciare a provare, ognuno nel proprio contesto. E in realtà ce ne sono un'infinità di esperienze in tanti ambiti, lo sappiamo, del mangiare, del produrre, del distribuire, dell'educare, del consumare, del trasportare, del vivere, che ci possono prefigurare un mondo diverso. Il problema è che bisognerebbe metterle assieme queste cose, perché se c'è un pericolo, dicevo, dell'intellettuale che è, come dire, specifico, iperspecializzato, che sa tutto di questa robetta qui, ma non vede quello che c'è qui, e quindi non capisce niente, perché non può capire quello che c'è qui se non sa anche cosa c'è qui. Se questo è il pericolo dell'intellettuale, il pericolo di chi sperimenta fine a se stesso è che pensi che quello che sta facendo lui da solo basta e si appaghi, si senta appagato dentro questo piccolo mondo che si è creato, creandosi un'isola felice. Ed è quello che a volte succede anche in educazione. Genitori che magari sono convinti, hanno voglia per i loro figli di creare un'esperienza educativa diversa, che è già un bel punto di partenza, e non comune, però è già importante, ma che una volta che il proprio figlio ha, non gliene frega più niente di tutto questo. Allora anche questo non, a me non interessa. Ecco perché non mi interessa l'homeschooling, per esempio. Non mi interessa niente. A me interessa che si creino contesti sociali nei quali noi proviamo a prefigurare, ed è uno degli sforzi che vorrei fare io nei prossimi anni, che è quello di provare a mettere assieme, far sedere attorno a un tavolo intanto chi sta sperimentando forme diverse di prefigurazione sociale in senso libertario e anti-autoritario, e cominciare a dialogare e a rapportarsi e a scambiarsi e a soprattutto ad aiutarsi reciprocamente, anche concretamente, per vedere se si può fare rete, diciamo, di un mondo. Questo credo che sia. Io non ho altre francamente possibilità, non vedo. Io avevo due domande. La prima è se tra questi molti esempi, no, di cui parli, di istruzione alternativa, ce n'è uno che ti ha colpito, suggestionato di più, o a cui sei anche solo più affezionato, insomma. Anche pensando a quella frase del ogni obiettivo che non sia veramente realizzabile è un inganno. Quali di queste forme sono veramente riproponibili in misura da colpire la popolazione nella sua grandezza, perché siamo veramente tanti? Questa è la prima domanda. La seconda, forse anche che mi preme anche di più, è se si parla di istruzione resa obbligatoria, allora a me viene in mente quasi subito che è chiaramente un controsenso, perché se è resa obbligatoria è resa obbligatoria da una certa autorità, in ogni caso da una forma di potere che ti costringe a accedere a sottoporti a questa istruzione. Però se dall'altro lato si concepisce questa forma di apprendimento incidentale con così tante potenzialità, no, che può avvenire in ogni situazione della tua vita, in ogni situazione, in ogni momento della quotidianità puoi apprendere, che è quello che io credo anche, però se davvero si inizia a pensare a tutte queste miriadi di potenzialità di questa forma di apprendimento, ecco, non mi viene in mente, non è che effettivamente qualche situazione di apprendimento può essere effettivamente nociva a uno stare insieme, semplicemente immagino un apprendimento di distruttività, per dire, un qualche cosa che dia sfogo a un istinto che può arrivare da una situazione, o può essere anche, ora questo è un discorsone, ma che sia innato o meno, che sia indotto o innato, un istinto di distruttività che trovi sfogo in una forma di apprendimento. Ecco, questa starebbe nelle forme molteplici di apprendimento, come si dice qua, incidentale. Bisogna accettarle, cosa ci possiamo fare? Le possiamo reindirizzare o cosa? Questa è la domanda. Grazie delle due domande. Beh, la prima velocemente, se c'è una esperienza, non ho capito, scusami se ti riferivi a un'esperienza di tipo di educazione o in generale. Ah, di educazione che mi è rimasta particolarmente, che mi ha colpito particolarmente, che mi ha segnato particolarmente. Beh, io ne ho viste parecchie in giro per il mondo. Sono stato in Sud America, sono stato in tutta Europa, in Israele, in tantissimi posti ne ho viste parecchie. Devo dire che quella che mi ha segnato più profondamente è quella che, di una scuola finlandese che raccoglieva, come dire, i rifiuti della società, cioè i bambini e ragazzi che erano frutto o trovati in un cassonetto delle immondizie neonati o usciti dal carcere o schizofrenici o down o colpiti, insomma, da tutte le tipologie che voi potete immaginare esistere o essere così certificate, tra virgolette, da questo processo di medicalizzazione. Quella mi ha colpito perché mi ha fatto, sono uscito di lì che ho cambiato il mio sguardo nei confronti di queste problematiche, che sono quelle un po' più forti, no? Quelle che chiamiamo dell'handicap, per capirci. E ho capito che, adesso non ti racconto molto di questa storia perché è una cosa che mi impegna emotivamente ogni volta, ma l'esito finale è stato questo, che ho cambiato il mio atteggiamento nei confronti di queste persone, non considerandole più con uno sguardo di tolleranza, nobile sentimento, ma assolutamente insufficiente e talvolta fuorviante, ma pensando che queste persone, come tutte le altre, fossero degli esseri speciali. E perché lì l'ho sperimentato, e mi è capitato poi anche nella mia vita professionale di sperimentarlo, di cogliere in alcune persone di questo tipo dei modi di comunicare così profondi e forti che io, che mi considero, e probabilmente come tutti voi, un essere normale, no? Non sono in grado di mettere in atto in una relazione con gli altri. Questa è la prima domanda. La seconda era, aiutami, dammi i limiti, certo. Certamente oggi l'apprendimento incidentale è anche è tutto quello che passa in questo mondo, e quindi siccome in questo mondo passano anche cose che riteniamo consapevolmente e ragionevolmente certamente non positive, c'è anche tutto questo. Ma quando parliamo di apprendimento incidentale e pensiamo di organizzare questo apprendimento recuperando questo tipo di atteggiamento, questo approccio, non dobbiamo dimenticarci di un concetto fondamentale che è per me, poiché io credo una brutta parola, penso che la natura umana non sia né buona né cattiva, e chiunque tenti di dimostrare l'una cosa o l'altra non solo perda tempo ma pazienza a fare i suoi, ma commetta anche un grave arbitrio ideologico e pericoloso arbitrio ideologico, poiché penso che, appunto, come dice un altro libro che ho fatto che si intitola La condizione umana, noi dobbiamo parlare di condizione umana e non di natura umana. Parlando di condizione umana, noi sappiamo, se accettiamo questa ipotesi, che noi siamo una molteplicità di cose. E quindi la società è una molteplicità di aspetti, tanto più. Ma questo richiama il concetto che dicevo per me è importante, che è quello di responsabilità. Perché se noi siamo convinti che siamo una molteplicità di cose, il nostro senso di responsabilità vero e profondo è quello che ci dovrebbe guidare nel creare istituzioni, e lo dico in senso di istituente, non di istituito, riferendomi, se qualcuno si ricorda, ai vecchi dibattiti di Luro, in Italia il primo che ha parlato di queste cose fu Alberoni, ahimè, copiando dei francesi. Dico ahimè perché adesso ho visto che è candidato, mi pare, con, non so se con Fratelli d'Italia, una roba del genere, una roba buona. Non me lo sarei mai aspettato, a parte che non lo seguo più da anni, ma che da quelli, vabbè, a fare i suoi nostri anche, ma tanto non sarà eletto di sicuro. Dicevo, il concetto di responsabilità, quindi noi dobbiamo sentirci responsabili che tutte le azioni che mettiamo in campo, tutte le istituzioni che creiamo, devono essere comportamenti, nel caso di relazioni, e istituzioni organizzate, eccetera, che diano spazio a quella parte di socialità, di mutuo appoggio, di relazione che è preminente all'interno della specie animale e quindi anche nostra. E quindi i pericoli certo che ci sono, ma noi non siamo lì a non far nulla, siamo attivi protagonisti di questo processo di cambiamento. Questa è l'unica salvezza che abbiamo. Non c'è nessun determinismo che vale. Certo è, io posso pensare, perché l'esperienza storica, perché ce lo dimostra, credo in modo abbastanza evidente, che se, perché in educazione non è un caso che quello che chiamiamo esempio funzioni molto di più della predica, perché il genitore o l'adulto, insegnante o non insegnante, non importa, che predica e poi si comporta in un altro modo, è chiaro che vanifica e fallisce completamente ogni suo tentativo educativo nel senso vero della parola. Ecco, no? Quindi dicevo tutto questo. Se noi mettiamo in campo comportamenti positivi, creiamo spazi organizzati che siano di soddisfazione a questo tipo di sentimenti, chiamiamoli così, di istinti, noi possiamo sperare, certezze non ne avremo mai, possiamo sperare che la vita sociale possa acquisire dei risultati migliori, che cioè la cooperazione funzioni meglio della competizione. E questo, guardate, qui ancora Kropotkin, per esempio, c'è un bellissimo libro, molto emblematico da questo punto di vista, che mi viene in mente, scritto da una giornalista statunitense, Rebecca Solnit, che ogni tanto viene pubblicata anche da Internazionale, che ha scritto tanti libri, ma uno che si intitola Paradiso all'inferno. Lei è una giornalista investigativa, oltre che antropologa, e si è presa la briga di andare a spulciare i resoconti, le documentazioni, gli atti ufficiali, ma anche i giornali, eccetera, eccetera, naturalmente che venivano prodotti nell'epoca, che adesso capirete, nelle varie epoche, che hanno analizzato, spiegato, annunciato le più grandi catastrofi che sono successe nel mondo dal 1900 in poi. Una delle costanti che appariva in tutti i mezzi di comunicazione ufficiali, immaginate qual era, una delle voci principali: la catastrofe è avvenuta, il giorno dopo gli sciacallaggi sono stati il comportamento predominante degli esseri umani che si sono trovati a vivere dentro questo. Bene, lei dimostra in questo libro, che è poco conosciuto, vedo dagli sguardi, ma che è molto bello, dimostra esattamente il contrario. Dimostra cioè sull'onda di, proprio del mutuo appoggio di Kropotkin, che difatti cita, dà rilievo, facendo un'indagine approfondita, a quella infinita pratica di solidarietà, di aiuto, di sostegno, di auto-organizzazione in assenza dello Stato, in assenza di chi, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, che gli esseri umani di fronte a un problema così drammatico e grave hanno messo in campo spontaneamente tra di loro, ottenendo, e questo lo possiamo vedere benissimo anche noi, ottenendo dei risultati eccellenti che la competizione, che l'intervento dello Stato non avrebbe assolutamente potuto conseguire, anche facendo un discorso meramente quantitativo. Ecco, questo mi viene da dire, non so se ho risposto, penso di no, perché è una risposta difficile, però di più non so dirti. Allora, grazie. Grazie dell'intervento. Finiamo qui. Io farei un applauso. E speriamo che i semi anarchici sotto la neve possano germogliare.